9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 24 di marzo. Oggi è Santa Caterina, però quella di Svezia, non da Siena, la figlia di Santa Brigida. Siamo nel 1300, quando c'erano mistici in Svezia. Detto questo, il tema di oggi è il decreto adottato ieri dal Consiglio dei Ministri in tema di mancato gradimento delle scalate ostili alle società italiane in alcuni settori. In realtà è un decreto con il quale semplicemente al momento si prende tempo. Si dice che le assemblee delle società possono essere convocate non a 120 giorni dalla scadenza dell'anno precedente, ma a 180, quindi in buona sostanza applicato al caso di cui tutti parlano, e cioè al fatto che i francesi di Lactalis, società di oltre 10 miliardi di fatturato annuo, non quotata in borsa in Francia, dei Besnier, di una famiglia, ha raggiunto il 29% di Parmalat, e questo ha sorpreso la finanza e la banca italiana. Il governo per il momento non interviene a piedi uniti nella vicenda, ma dice, dopo essere già intervenuto per impedire che Edison andasse ai francesi di EDF, dopo aver più volte sostenuto che i francesi non ci fanno entrare nel mercato ferroviario francese dove tutelano i loro incumbent SNSF, mentre noi facciamo entrare, facciamo fare concorrenza a Trenitalia sul mercato italiano da una società, la NTV, che è partecipata da SNSF, a un certo punto il governo dice: guardate, adesso diamo il segnale, quindi l'assemblea di Parmalat convocata per aprile, avete altri 2 mesi, anche se era già convocata col decreto legge di ieri, per tenerla 2 mesi dopo. È un segnale al mercato italiano, perché è chiaro che nel frattempo il governo, non avendo per il momento adottato altre norme come quelle che pure esistono in altri paesi come in Francia, come in Germania, come altrove, come in Canada, però dice: guardate, nel frattempo prendiamo tempo, vediamo se in Italia qualcuno si fa avanti e se i francesi capiscono che non li gradiamo, altrimenti nel frattempo assumeremo altre misure. Detto così significa comprare tempo, ma in buona sostanza la domanda che da porsi è: cosa serve di più all'Italia? Serve intervenire, ripeto, come fanno i francesi? I francesi hanno una norma per la quale le società extra Unione Europea, se acquisiscono il controllo con un'OPA di società quotate francesi, in 11 settori che vengono definiti di interesse strategico, devono chiedere il placet preventivamente. E comunque, anche se sono europee, le società acquirenti, 7 restano i settori nei quali i francesi si riservano di dire tu sì e tu no. Bisogna fare così anche noi, in nome del fatto che se lo fanno grandi paesi europei nel loro mercato, e se Bruxelles non ha niente da dire in materia di tutela della concorrenza, meglio adeguarsi e fare la stessa cosa, dare un segnale di chiusura. Ma dall'altra parte, non è forse vero che noi abbiamo più bisogno di altri, di capitali stranieri per crescere? Ci conviene fare quei loro che sono più avanti nel rispetto delle norme vigenti, visto che in realtà i francesi sono arrivati al 29% di Parmalat, ma nel pieno rispetto delle regole. Parmalat è una delle grandi società quotate italiane, l'unica in forma di public company. Cosa vuol dire, per chi non se lo sapesse? Vuol dire che il suo capitale è diffuso sul mercato, non è retta, eccezione in Italia, da patti di sindacato di soci sindacati, e da anni gestita, dopo il più grave, il più colossale, il più penoso scandalo della storia del capitalismo italiano, con 14 miliardi di euro, ricordiamo, di finti attivi e di finta liquidità, dove per finta bisogna intendere proprio che era fabbricata al ciclo stile. Ecco, dopo di allora, fregatura che andò nelle tasche degli azionisti e degli obbligazionisti, perché come è noto le banche e le società di rating fecero in modo che le banche esposte nelle obbligazioni e nel credito alla società rientrassero, buttando tutto poi o il più nelle tasche dei risparmiatori, azionisti e obbligazionisti. E con gli ultimi anni questa azienda, in forma appunto di public company, è stata retta da colui che fu poi individuato all'inizio come commissario, Enrico Bondi. Enrico Bondi, che in questi anni, sottoponendosi ogni anno al voto di assemblea, che in public company significa che con un piccolo capitale ti possono i fondi, se non sono contenti di quello che fai, mandare via, e lui invece anno dopo anno anno, con risarcitorie e revocatorie che sono riuscite a ristrappare alle banche più di 2 miliardi, ha rimesso in piedi la società. La società fattura oltre 4 miliardi di euro, inutile, ha uno statuto particolare per cui deve retrocedere ai fregati, cioè ai risparmiatori, il 50% di quello che fa ogni anno col segno più, e in cassa c'ha la bellezza di 1,5 miliardi di euro. Allora, di fronte a questo, anno dopo anno, Bondi si è dovuto riconquistare la fiducia dei suoi azionisti. Tutti quanti in Italia, banche e imprenditori del settore, sanno che in una public company non è troppo difficile organizzare una maggioranza molto relativa di azioni per la quale si controlla una società che, ripeto, non ha patti di sindacato, senza minimamente dover fare poi l'OPA, cioè senza dover andare oltre il 29,9% del capitale. Anche questa volta, da mesi, come tutti gli anni, alcuni fondi sferragliavano contro Bondi, ed è da mesi che si leggeva sui giornali che dicevano: ragazzi, questo signore è troppo rigoroso, questo signore noi non lo vogliamo più, visto che c'ha 1,5 miliardi in cassa e non lo utilizza per comprare roba nel mondo, mandiamolo via così ce lo riprendiamo noi azionisti. E anche questo fa parte del gioco delle regole del mercato. Di fronte a questo, tutti gli imprenditori italiani del settore braccia conserte, tutte le banche braccia conserte, compresa Banca Intesa, di cui da sempre sappiamo che c'ha un 20% di Granarolo che vorrebbe associare in Parma, però il problema è che Granarolo soldi non ce n'ha. E comunque, di fronte a questi, i francesi si sono mossi a un certo punto, sono andati dai signori dei tre fondi che avevano il 15%, hanno rastrellato anche loro un 14%, sono arrivati al 29%. Hanno violato delle regole? Risposta: no, visto che quella è una public company. E di fronte al 29%, di fronte al ritardo, all'assenza di qualunque capitalista italiano del settore, gli ultimi a ritrarsi sono stati Ferrero, e di fronte al fatto che c'è una banca, Banca Intesa, non esattamente l'ultima, che da anni ogni volta fa capire che Bondi andando a casa si sistemerebbe una famosa operazione di sistema, come si suol dire quando in nome dell'italianità ci si sistema proprie partecipazioni da allocare, anche questa volta tutti a braccia conserte, alla fine vanno dal governo e dicono: intervieni tu. A Tremonti ieri ha semplicemente comprato tempo. Domanda: è giusto? È sbagliato? Domanda: in questi 2 mesi in più ci sarà una cordata italiana, che a questo punto però dovrà convincere i francesi a cedere il loro 29% e pagare quindi di più un controllo che a loro è costato più o meno di quello che ha in cassa Parmalat, e poi a quel punto salire ulteriormente e fare un'OPA? Vabbè, non lo so, io sono molto perplesso, perché mi sembra che le debolezze dell'Italia rivelate da questa vicenda siano debolezze che non hanno molto a che vedere con le norme e il protezionismo da rafforzare. Secondo me è un errore rafforzare il protezionismo. Anche Confindustria ieri, il direttivo di Confindustria ha detto, intervenendo in casi singoli come questo di Parmalat, come il caso di Edison, di volta in volta si dà l'idea di un governo e di un sistema paese che si riserva discrezionalmente di valutare di volta in volta i sì e i no, e non è questo di cui ha bisogno l'Italia. Però i problemi, i pareri sono aperti, e sentiamo come la pensano i nostri ascoltatori più avanti con le telefonate, come la pensano i nostri ospiti. Abbiamo all'inizio Nicola Porro, che è il vice direttore del giornale. Buongiorno e grazie a Nicola. Buongiorno Oscar. E Fabiano Schivardi, che scusate, che è che insegna economia politica all'Università di Cagliari e scrive sulla voce.info. Buongiorno professor Schivardi. Buongiorno a tutti. Professore, cominciamo da lei. Che opinione ha di questo comprar tempo? Di che si aspetta? Che tipo di interventi, discrezionali o meno, o di che tipo di impianto normativo l'Italia ha bisogno di fare come gli altri, o dobbiamo essere invece un po' più avanti sul mercato rispetto ad altri? Ma allora, partiamo da un dato che secondo confronti internazionali che riguardano la presenza di capitale straniero nelle imprese, io ho dati per 7 paesi europei, noi siamo ultimi di gran lunga, cioè nonostante si dica che i francesi sono molto protezionisti e in effetti hanno sicuramente politiche attive in questo campo, secondo i miei dati per le imprese manifatturiere con almeno 10 addetti in Francia il 10% ha almeno il 50% di capitale straniero, quindi sono letteralmente a controllo straniero. In Germania siamo al 6,5%, nel Regno Unito addirittura al 12%, e in Italia siamo al 4,1%. Quindi, al di là di questi eventi che sono ovviamente così, hanno un impatto anche psicologico, no? Insomma, i nostri cugini sono sempre stati i nostri avversari, e quindi l'idea che vengano, comprino le nostre imprese, magari proteggendole loro, questo dà sicuramente una reazione psicologica che io stesso condivido. Però se si guardano i numeri, in Italia se c'è un problema non è quello che abbiamo troppo capitale che entra, ma ne abbiamo troppo poco. e questo si riflette anche in una minore proiezione internazionale delle nostre imprese, cioè se si guarda le imprese italiane che fanno investimenti diretti all'estero sono decisamente più poche rispetto a quelle degli altri partner europei. Quindi partendo da questa constatazione, secondo me è sbagliato mettere in piedi un sistema normativo che riduca ulteriormente la possibilità che entri capitale straniero. Ricordiamoci che capitale straniero va tipicamente assieme, appunto, vengono soldi, vengono magari competenze, viene un'apertura a mercati che le nostre imprese non necessariamente hanno. Quindi nei vari studi che si fanno, le imprese a controllo estero tipicamente sono un po' più avanti delle imprese nazionali, mediamente. Ovviamente abbiamo anche imprese nazionali di altissimo livello, però le imprese che vanno fuori dal proprio paese a comprare imprese in altri paesi sono tipicamente le imprese migliori, che poi lasciano anche qualcosa di positivo nel paese di origine. Professore, quindi, aggiungo, anche se sembra centrar poco, a proposito della delocalizzazione, tutti gli studi comparati, accumulati in questi anni, per esempio su cosa è accaduto alle società tedesche che hanno delocalizzato dopo l'unificazione rispetto a chi diceva in Germania, un po' come accade in Italia nella vicenda Fiat, ma come adesso dobbiamo unificare il paese, andate a investire fuori. Un bel po' di ricerche comparate dei fiori economisti ci consegnano la situazione a conferma di quello che dice, che chi ha fatto così ha aumentato la redditività per addetto, ha esteso il profilo dell'azienda, ma tutto questo è ritornato anche in maggiore efficienza e produttività e anche poi nel medio periodo in più alta retribuzione per addetto anche nel gruppo di controllo che è rimasto in Germania. Questo per dire che investire fuori è un errore credere che sia impoverirsi qua, come molti pensano. Al contrario, significa fare l'una e l'altra cosa col segno più. Esattamente. Quindi secondo me, più che questi provvedimenti estemporanei, che come diceva lei e come ha detto ieri Confindustria, generano confusione e danno un senso di arbitrio agli potenziali investitori, che è la cosa peggiore che si può fare, no? Cioè, se uno dice voglio investire in Italia, ma so che in ogni momento un governo può svegliarsi e fare un decreto che cambia le regole del gioco durante la partita, ovviamente è il modo migliore per tenere la gente lontana. Cioè, secondo me il problema è, cioè, una preoccupazione è quella che stavamo dicendo, no? Che magari i francesi vengono, si comprano i marchi e poi esportano disoccupazione in Italia, cioè producono più in Francia che in Italia. Io, può darsi che sia vero, in realtà appunto chi delocalizza lo fanno sia gli imprenditori nazionali che quelli stranieri, e tipicamente si è visto che spesso fa bene, ma secondo me il punto fondamentale è quello che, cioè, in Italia abbiamo un problema di competitività, e quindi non è tanto qual è la nazionalità del capitalista, della proprietà, ma è fare una serie di riforme che facciano sì che il nostro paese diventi attrattivo dal punto di vista degli investimenti nazionali e esteri, cioè non importa il colore dei soldi che arrivano, ma, cioè, i francesi, se compreranno Parmalat, continueranno a produrre in Italia se questo sarà conveniente. Se questo non è conveniente, non lo faranno i francesi, ma a lungo andare non avrebbe potuto farlo neanche Bondi, perché semplicemente l'attaccamento nazionale non è sufficiente a rendere così conveniente un investimento che in pratica non lo è. Quindi secondo me queste sono cose che magari politicamente pagano nel breve periodo, come la vicenda all'Italia ci ha insegnato, ma in una prospettiva di lungo periodo non portano da nessuna parte. Bisogna, la strada è difficile, faticosa, ma bisogna lavorare sulle riforme strutturali. Allora, Porro, lei ieri sul giornale non ha neanche aspettato il decreto legge del governo, questo lo dico per chi poi pensa che tutti i giornali siano ascrivibili solo per proprietà, tutti i giornalisti siano allineati, no. Nicola Porro, il vice direttore del giornale, ieri il giornale aveva un articolo critico, prima ancora del decreto, che titolava sì, perde l'Italia, vince il mercato, quindi non è che proprio invocasse il protezionismo, e diceva, puntava il dito contro chi è rimasto con le braccia conserte di fronte all'evoluzione sotto gli occhi di tutti in questi anni della Parmalat di Enrico Bondi. Però la domanda che le faccio è duplice, Porro. Le mucche, il latte, è un settore strategico, come lo è molto più comprensibilmente la difesa, le dorsali di telecomunicazioni, l'energia, l'alimentare, e le mucche sono davvero così strategiche? Primo, secondo, e Poi, una società che ha in pancia 1,5 miliardi di euro, certamente la questione è che chi decide dove investire per farla crescere, un conto è se ha la testa di farla crescere anche in Italia, comprando qualcosa nel mondo magari, altro conto è se magari se ne associa il controllo, se ne assume il controllo come fanno i francesi, e a quel punto la prospettiva sarà di utilizzare quel 1,5 miliardi facendola crescere, però con la prospettiva di far crescere innanzitutto a Parigi. Queste due questioni, secondo lei, che tipo di risposta meritano? Ma la questione delle industrie strategiche è chiaramente una balla, nel senso che è strategico quello che interessa in quel momento ai politici. Le faccio un esempio molto chiaro: noi abbiamo inventato strategica adesso l'industria del latte, perfetto, per proteggere Parmalat, ma lo stesso governo, cioè il governo Berlusconi, sull'energia, che è un settore che universalmente viene definito strategico, per me non è neanche quello strategico, è strategico quello che costa meno per il consumatore, ma questa è una parentesi che chiudo subito. Viva! Però lo stesso governo nell'energia aveva basato un piano industriale e nucleare basato su una tecnologia francese, quindi noi consegnavamo mani, piedi e lampadine ai francesi, e secondo me ben facevamo, per una tecnologia nucleare che stavamo sviluppando con l'Enel, che si chiama EPR, che sono i generatori di terza generazione. Io sono soddisfatto di questa apertura ai francesi sul nucleare, ma mi chiedo come possa lo stesso governo considerare intollerabile il fatto che i francesi si comprano il latte e invece tollerabile il fatto che le nostre future centrali atomiche siano di fatto a tecnologia targata francese, posto che anche su questo il governo ha fatto un drammatico passo indietro che io non condivido. Ma rispondo anche alla sua seconda domanda, perché mi sento acceso, perché oggi ho fatto un secondo pezzo molto ostile a questo nuovo comportamento di politica economica del governo, che invece ben mi aveva fatto sperare dopo quella lettera al Corriere della Sera che chiedeva maggiori liberalizzazioni. Sì, è un momento che si sta degradando il collegamento, quindi non la sentiamo più. Facciamo una cosa, partiamo con la pubblicità, richiamiamo Porro e ripartiamo dal secondo motivo di arrabbiatura che vibra nelle sue parole, ma c'è anche nel pezzo di oggi. Intanto pubblicità. Allora, diceva Porro, ha scritto oggi un altro articolo non meno preoccupato di quello di ieri. E però sulla seconda domanda, che mi ricordo bene, cioè del 1,5 miliardi che c'è in cassa e del cervello nel decidere questo 1,5 miliardi, anche questo secondo me, io poi so benissimo le tue provocazioni, è un falso problema. Cioè, chi compra un'azienda cerca di farla fruttare il più possibile, questo è il suo interesse, va bene? E allora due risposte a quel 1,5 miliardi. Il 1,5 miliardi, chiunque gestirà privatamente in senso sano quell'azienda, cercherà di investito nel modo che sarà per lui più redditizio, a differenza di quanto invece si immagina nei consigli dei ministri, che inventano i settori strategici, e quindi la loro logica non è il profitto, non è l'utile, ma una sua disonna utilità sociale, che poi è quella che più interessa 5-6 esseri umani che sono all'interno del consiglio dei ministri, che noi aborriamo ovviamente in un libero mercato. Però lasciamo pure perdere questa questione. Il punto fondamentale è che si deve sapere che Parmalat aveva cercato di fare un'acquisizione in Italia, e questa acquisizione in Italia le era stata impedita per motivi antitrust. Ulteriore miopia che spesso il sistema italiano c'ha, perché se è vero che Parmalat era lì 7 anni soltanto da essere comprata, e come c'erano i Besnier che hanno comprato il 29%, ci poteva essere anche qualche italiano a comprare quel 29% sul mercato, mentre il nostro maggiore azionista italiano c'ha il 2,5% ed è una banca, bene, quello che voglio semplicemente dire, i Besnier hanno fatto quello che avrebbe potuto fare chiunque altro, e non l'hanno fatto gli italiani, perché c'è un sistema capitalistico italiano ovviamente frammentato e che pensava di controllare quell'azienda col 2,5%, e poi c'è un sistema antitrust che spesso è più realista del re e fa sì che in Italia si consideri il mercato del latte in posizione dominante, ovviamente perché si guarda soltanto quello spicchietto e non come fanno altri antitrust europei, che considerano invece l'ambito più ampio, e cioè non il semplice latte. Quindi, Oscar, il problema è che con Parmalat fallisce il sistema italiano, e che il primo fallimento, non bisogna mai dimenticarlo, e tu l'hai ricordato bene, è che Parmalat è stata gestita dai Besnier italiani, cioè cioè i Tanzi, che hanno fregato 15 miliardi di euro. Questa è la differenza, sì. Per questo non è più in Italia Parmalat, non perché siamo cattivi. Io sono molto d'accordo con quello che sostiene Nicola Porro, avete sentito anche il professor Schivardi, naturalmente immagino che a molti, perché vedo i messaggi che arrivano, devo dirlo sia a Porro che a Schivardi, i messaggi degli sms che arrivano ai nostri ascoltatori dicono sì, però voi state esagerando, la realtà è che molti casi di imprese poi il cui controllo è andato ad aziende straniere, effettivamente la logica dei centri direzionali cambia molto, perché chi ha case madri all'estero tende a privilegiare i centri direzionali propri, lasciano qui solo gli operativi, naturalmente diventiamo un paese nella catena di fornitura, ma il più della decisione di dove concentrare il maggior valore aggiunto per la crescita si fa nelle case madri, e quindi si fa nelle case madri dei paesi di provenienza, dei grandi gruppi. Molti dicono se pensate che in questo c'entri la Lega perché le quote latte, non si sa se sia vero o se sia falso, ma non c'entra niente con Parmalat, la questione è che i più grandi gruppo alimentare uscito fuori dal grave scandalo che avete ricordato non merita di essere asservito a interessi stranieri. Quindi c'è una forte reazione comunque negli ascoltatori di Radio 24 che dice, che tende a dare ragione all'intervento del governo, che per il momento è solo comprare tempo. Chiediamo allora ad Angelo De Mattia, che è ex direttore centrale Banca d'Italia, che da anni commenta la legislazione comparata italiana e degli altri paesi europei su questioni sistemiche come il mondo del credito, il mondo delle assicurazioni, quindi ha un occhio su un settore particolarmente importante, il sistema del credito, sul quale, ve lo ricordo, la vigilanza è sì comune europea ma è articolata a livello nazionale, e dove le norme spesso sono diverse da livello nazionale a livello nazionale. Chiedo ad Angelo De Mattia, per l'esperienza che ha, per le opinioni che ha nutrito osservando l'evoluzione dell'ordinamento italiano, l'Italia ha bisogno di mettere puntelli come quelli che ci sono in Francia, oppure ha ragione chi come il professor Schivardi e Nicola Porro dicono ma che noi abbiamo bisogno innanzitutto di rispettare le regole che ci siamo dati, ma secondo abbiamo bisogno di più capitale straniero o non e non meno capitale straniero. Insomma, dal suo punto di vista, nei prossimi mesi, una volta che è slittata l'assemblea di Parmalat, meglio augurarsi un ulteriore intervento che definisce settori e puntelli, o lasciar fare a questo punto alle forze del mercato, e se il mercato italiano, capitalisti e banche, non si è organizzato di fronte a una public company, beh, tanto vale prenderne atto senza erigere barriere discrezionali contro il gruppo francese Lactalis. Che pensa? No, io sono di questa opinione. Sarebbe assurdo immaginare delle barriere fortissime nei confronti di investimenti che possono venire dall'estero. Tuttavia, fino a quando l'Unione Europea non avrà livellato il campo di gioco nell'ambito della comunità e poi più in particolare nell'ambito dell'eurosistema, allora il principio di reciprocità non potrà essere considerato bandito dalle nostre considerazioni. Ritengo che fare appello a questo principio da solo non basti, cioè questo è un presupposto, deve avere chiaramente una valenza transitoria, ma poi una volta ricorso a questo principio bisogna fare tutto quello che fino ad oggi non si è fatto. Io in linea generale condivido la normativa che ha introdotto ieri il governo, ma la condivido anche per questa ragione, che essa è la metafora, una conclusione non gloriosa di tutte le mancanze che hanno attraversato questi lunghi anni, delle parole inascoltate. Io ricordo a tutti come fu sbeffeggiata la Banca d'Italia all'inizio degli anni 2000 quando pose questo problema, cioè pose il problema della competitività, della produttività, del capitale italiano, della riconversione e ristrutturazione del tessuto industriale italiano. Quando addirittura per evitare il fallimento, si badi bene, il fallimento della Fiat, la Banca d'Italia fece opera di moral suasion nei confronti delle principali banche italiane perché accedessero all'operazione convertendo. Quell'operazione fu giudicata da tutti infelice, la Banca d'Italia fu messa sul banco degli accusati perché si era occupata di una cosa di cui non si sarebbe dovuto occupare. Poi alla fine tutti hanno visto l'importanza di quella decisione, oggi tutti elogiano quella decisione, devo dire che senza le banche del convertendo non vi sarebbe stato Marchionne che avrebbe potuto tenere successivamente. Ecco, allora io ritengo che ciò che il governo ha fatto è un presupposto. Se non seguono iniziative a livello industriale, se non seguono iniziative a livello bancario, oggi sta tornando di moda una frase che sembrava bandita e che alcuni sconsiderati ritengono assolutamente impropria, cioè quella di operazioni di sistema, che non sono le operazioni a perdere, che sono operazioni che debbono avere come presupposto anch'esse una loro redditività. Allora dicevo, se non ci sono queste iniziative e dall'altro lato il governo non imprime una svolta nel campo della politica economica dandosi carico dell'avvio di una politica industriale, altro nome che non si potrebbe fare secondo alcuni, allora la normativa che è stata adottata non varrà granché, insomma sarà stato un tentativo, ma un tentativo che sarà poi finito sostanzialmente nel nulla. Insomma, è un presupposto che si può aprire a due strade: o questa strada che ho detto io, cioè una capacità di iniziativa nel campo economico e finanziario per poter gareggiare ad armi pari con l'impresa francese, oppure l'altra strada, cioè quella del dirigismo, del protezionismo, dell'assistenzialismo, che sarebbe una strada sciagurata. Allora sono i prossimi giorni, le prossime settimane che ci diranno quale delle due strade è stata imboccata. Mi auguro naturalmente che sia la prima ad essere percorsa, anche perché percorrendo la prima, e non è una magra soddisfazione, viene fuori che tutto ciò che era stato detto un tempo aveva una sua validità e, sia pure con ritardo, dovrebbe essere ripreso in considerazione. Esatto, allora, come vedete De Mattia ha una visione diciamo che non disconosce l'importanza delle difese in taluni settori, ha rivendicato quello che convertendo le banche con Banca Italia fecero, perché non ci sarebbe stata continuità aziendale in Fiat, però con una certa misura. Quindi dice, se poi il mercato non segue e non ci sono poi i protagonisti del mercato italiano che capiscono che è conveniente, perché il problema è che qui non stiamo parlando di salvare un'azienda che va male, cioè Parmalat è stata rimessa in piedi, condotta con onore, alla cassa piena, quindi non è che sia un pessimo affare. Nicola Porro dice, e infatti in Italia si pensava a quel punto di tenerla con il 2% in mano. Ecco, questo è un po' il difettuccio nei confronti del quale De Mattia dice, le forze finanziarie e imprenditoriali italiane poi rispondono a questo giusto presupposto, o altrimenti non è che poi ci si può fare tutto a tavolino. Franco De Benedetti, abbiamo Franco De Benedetti oggi sul Foglio, fa un intervento pepato sulla questione, e il paradosso è che poi invece è pubblicato a fianco di quello di un banchiere d'affari, Arnaldo Borghesi, che invece batte le mani alla discrezionalità del governo. Franco De Benedetti invece come la pensa? Io penso che sia stato un brutto pasticcio quello che è stato combinato. Perché si dimentica una cosa, che il dossier Parmalat è sui tavoli di private equity, di istituzioni finanziarie, da un paio d'anni. Allora, se nessuno, non è che sia capitato una roba, adesso si parla di 6 mesi, ma è 2 anni che questo dossier è aperto. E se qualcuno non interessa farlo, l'avrebbe fatto. Ora, il problema, secondo me, adesso bisogna prescindere da queste... Dalle singole vicende guardando le quali si fanno solo dei pasticci, bisogna avere una visione un pochino più complessiva. Prima di tutto c'è un articolo di Barbara Navaretti, l'ho finito di leggere poco fa, in cui analizza: in Italia abbiamo la partecipazione di imprese estere, in Italia è il 14% del PIL, in Francia è il 40%. Allora noi abbiamo interesse a non isolarci dal commercio e dalle partecipazioni internazionali, ma al contrario, di intensificarle. Noi dobbiamo chiedere, il vero problema è perché le nostre imprese ci lamentiamo che noi siamo più sovente prede che predatori? Io non credo che gli italiani antropologicamente siano timidi o che non che guardino solo al proprio orticello. Io credo che invece bisogna chiedersi per quale motivo, guardando le convenienze. Allora, se un'impresa italiana non ha ritenuto di investire in Parmalat o in generale non ritiene di andare all'estero, è o perché ha maggiori convenienze a investire in Italia o perché ha maggiori paure di andare all'estero. E noi con questo, con quello che abbiamo fatto, che cosa diciamo? Diciamo alle aziende: guardate, concentratevi di più sull'Italia, fate sistema. Quello che conta sono le attività per il paese. Il messaggio è esattamente opposto, perché dovremmo anche dargli qualche convenienza per comprare a 2,80 quello che potevano comprare a 1,70, non è vero? Sì. Sarà questa convenienza? Sarà convenienza, sarà un vantaggio per i consumatori, sarà un vantaggio per l'economia italiana? E poi, per quanto ai timori di andare all'estero, con queste iniziative che prendiamo di le chiamano reciprocità, ma in realtà sono delle azioni che non vengono, se viene la reciprocità alle nostre difese, che le nostre imprese troveranno più facile o più difficile andare all'estero, la loro paura di andare all'estero sarà più giustificata o meno giustificata. Quindi questa cosa è assolutamente suicida. Ma suicida non per l'affare Parmalat, che può andare a finire come si vuole, ma è suicida come visione politica di quello che si può fare perché le imprese italiane vadano di più all'estero. Quello, se vogliamo che siano più predatori che prede, dobbiamo diminuire il loro interesse a prendere le rendite in Italia e diminuire le loro paure ad andare all'estero. Ecco, io temo che se ci fosse il ministro Tremonti, che per il momento ha solo comprato tempo e non ha definito paletti, ricorderebbe che per primo suo fratello, tanti anni fa, quando si accinse a un'impresa insomma di un certo rilievo e di una certa estensione degli interessi che controllava all'epoca, e sto riferendomi ovviamente alla tentata scalata in Neschi Bay in Belgio, è la risposta di quel sistema paese, insomma quello francofono per intenderci, fu di dire: non passa lo straniero. E quindi anche chi ha il coraggio e la visione a volte ha avuto risposte che sono state obiettivamente di chiusura, magari aiutate da qualche errore, imperfezione eccetera, però di chiusura. Moretti, capo di Trenitalia, su questo ha dossier alti così, dicendo: io non faccio altro che tentare di entrare nei grandi mercati che sono quelli più ricchi del consolidamento ferroviario per i segmenti commercialmente più redditizi e concorrenziali, quelli all'alta velocità, e cioè tentare di entrare nel mercato francese e quello tedesco, ma lì col cavolo c'è sempre un'autorità di sicurezza che mi nega i permessi e le tracce che chiedo. Quindi sentiamo subito dopo le informazioni sulla circolazione stradale un po' di ascoltatori e poi ultimo giro di opinioni. Ecco, abbiamo proprio un ascoltatore da Parma, Silvio, che ci chiama. Prego, dica Silvio. Sì, buongiorno, grazie per darmi questa possibilità. Sì, ma volevo dire che secondo me Porro insomma non è stato corretto, perché ci sono, è chiaro che Parmalat nel passato insomma c'è stato un po' di associazione delinquere, allora abbiamo visto tutta questa storia in città. Chiamiamola un po' di associazione delinquere, è il più grave scandalo finanziario della storia italiana. Sì, mi permetto di fare delle differenze, perché Parmalat 10 anni fa o 15 era già più o meno un'azienda fallimentare. Sì. Precisamente attraverso finanziamenti particolari che arrivavano sia da banche che anche da finanziatori privati, ecco, ha cominciato attraverso delle carte truccate a trovare i soldi per comprare a destra a manca e far duplicare, diciamo, i fatturati, se non triplicare. Capisco, ma perché dice che Porro ha sbagliato? Questo è il mio avviso. Allora, perché Parmalat in questo caso, anche se non è corretto, ha prodotto, io parlo in linea di massima, lavoro per circa 12.000 dipendenti. Sì. che non avrebbero mai lavorato e i quali tutti questi dipendenti, di cui 6.000 in più in Italia, hanno pagato contributi, tasse e tutto quello che c'era da pagare. A differenza, prendiamo alcuni casi di altri che hanno fatto la stessa cosa con scatole cinesi vuote, prendiamo le Silvio, 60... sì, guardi, ho capito, però lei non mi può dire che i metodi di Tonna, cioè la falsificazione degli attivi patrimoniali e della liquidità, siccome hanno difeso occupazione, erano buoni, e quindi criticarli è come allora e mi dice criticate chi lo fa con le scatole cinesi. Le scatole cinesi sono un sistema di controllo che, per me che sono mercatista e voglio la piena contendibilità del controllo sul mercato, sono censurabili, però le scatole cinesi sono un conto. E gli attivi fatti col ciclo stile e la carta carbone, guardi, non è la giustificazione che difendono occupazione che può essere accettata, perché con questo criterio, mi dispiace, le ricordo che la mafia, la camorra, il mercato della droga, lo spaccio delle stupefacenti e la tratta di carne umana creano reddito a chi li controlla e anche un bel po' di occupazione. Mi dispiace, troverà indecoroso che io associ i legittimi interessi dei lavoratori di Parma, il sistema dei fornitori della catena quotidiana del latte a questa roba, però non si può sentire che i metodi di Tonna e Tanzi avevano una giustificazione sociale, non si può sentire, perché i risparmiatori se la sono presa nelle tasche per colpa delle disinvolture delle banche. Per questo c'è tutta la coda dei processi che riguarda non solo la famiglia Tanzi, gli amministratori, ma chi aveva incarichi anche nei collegi dei revisori, ma riguarda anche le banche. E Bondi non è molto amato dalle banche italiane perché appunto gli ha scucito più di 2 miliardi di euro dalle tasche delle banche. Questa è una delle ragioni per cui gli italiani sono stati diffidati dalle banche a investire in Parmalat, a dirla fuori dai denti. Le banche italiane, alcune di loro pensano che nel dirlo si è troppo amici di Enrico Bondi. Ecco, io penso che sia la verità e non sia una questione di italianità e esterofilia, ma è il fatto che le banche a Bondi non gliel'hanno mai perdonata, e gli imprenditori di settore, quando andavano da una grande banca italiana per dire investiamo, si dicevano ma con quello là, ma come fai, ma chi te lo fa fare? Ecco, questo è quello che è successo. E se alla fine ad aver rastrellato le azioni dei francesi è cosa privata, sì, però la moglie di un banchiere d'affari che conosce bene il dossier Parmalat, come si suol dire, se fosse politica ci sarebbe già qualcuno che indaga. Siccome invece avviene nel mondo delle banche italiane, nessuno neanche lo scrive, tranne un giornale, come sempre. Massimo da Parma, sentiamo come la pensa Massimo. Sì, buongiorno, buongiorno. Dica. Buongiornino. Sì, sono. Allora, io mi chiedevo, visto che l'azienda ha in cassa 1,5 miliardi di euro, sì, non potrebbe fare un'operazione di buyback, ricomprarsi un 30%, così bloccherebbe sul nascere l'operazione di Lactalis? Abbia pazienza, le rispondo subito. In teoria, certo, però questo significa che un'operazione di quel tipo naturalmente dovrebbe passare in assemblea. Primo, il manager che la proponesse, cioè Bondi, verrebbe accusato di fare difesa di se stessa. Secondo, dovrebbe portare a casa una maggioranza. I fondi che si dividono all'azionariato diffuso fino a che i francesi non avessero il 29%, come è ovvio, non sono favorevoli, non è detto che siano affatto favorevoli a una cosa di questo genere, non so se è chiaro, perché i fondi ragionano con un'altra ottica. Quindi sarebbe un'operazione molto ma molto rischiosa. Giro finale rapidissimo di opinioni. Schivardi, si attende che il governo stia a guardare che qualcosa si muova e non faccia nulla, o se qualcosa non si muove di italiano farà qualcosa secondo lei? Non mi sembra una situazione difficile, perché per muoversi qualcosa di italiano ci vuole un'OPA praticamente sul 100% del capitale, si sta parlando di 4 miliardi di euro, e qui secondo me viene fuori un po' le vecchie tare del nostro sistema di controllo delle aziende, incentrato fondamentalmente su famiglie e banche, con le famiglie che non vogliono perdere assolutamente il controllo e quindi non sono disposte a fare operazioni che vanno al di là del loro ambito familiare. Quindi nel caso Bulgari sembra essere successo proprio questo. Secondo me il problema di questa operazione è che, cioè, alla fine bisogna chiedersi un po' a chi fa comodo. Non fa comodo al paese, io credo, ma fa comodo a gruppi di potere un po' autoreferenziali, quindi appunto a capitalisti che controllano le imprese con lo zero virgola, aiutandosi con banche di sistema e cordate eccetera eccetera, a gruppi di manager che magari sono sempre loro e sono forti di un sistema di relazione molto forte ma magari non molto bravi a far andare le imprese, poi ai politici che preferiscono interagire con imprenditori italiani piuttosto che con questi stranieri che magari sono meno sensibili alle loro istanze. Quindi ecco, chiarissima, questa è un po' la mia impressione. Quindi, okay. Porro, ha sentito che però gli ascoltatori da Parma dicono che lei non rispetta troppo l'interesse e l'importanza del lavoro e dei fornitori di Parma a Parma. Beh, io lo capisco, come ho scritto, la pancia di chiunque vuole che Parmalat sia italiana, la pancia, ma la testa fa pensare che il rischio sia molto superiore. Una sola battuta, all'interno delle imprese ci sono certamente i lavoratori, però quello che ha fatto Parmalat a migliaia di famiglie, di risparmiatori e di azionisti è una cosa che non si può considerare ad latere, soprattutto gli obbligazionisti. Gli azionisti una certa dose di rischio ce l'hanno nel proprio investimento e domani si seccheranno molto di quello che sto dicendo, ma comunque l'azione è questo, certo. C'è un po' di rischio, ma l'obbligazione Parmalat venduta a dei tassi assolutamente fuori di mercato perché troppo bassi rispetto al rischio che incorporava, quella è stata un'operazione che tu fai sempre bene, Oscar, a ricordare, perché quello si chiama furto, ma furto a mani basse, e soprattutto quelle robe lì rompono il rapporto tra mercato finanziario e risparmiatori, piccoli risparmiatori, in maniera indelebile. Sì, sono le grandi ferite della storia dei mercati. Per riacquisire fiducia rispetto a quello, hai voglia a provvedimenti. Io mi scuso con Angelo Di Mattia e Franco Benetti perché il tempo l'abbiamo esaurito. Piccola nota finale: vi abbiamo detto che questa settimana vi avremmo sempre quotidianamente informato sulla crisi dei teatri, il problema del FUS. Ieri avete visto, il FUS è stato reintegrato, si torna ai 420 milioni, non ai 240, però mi dispiace dirvi che la tecnica con cui si è deciso di tornare al FUS dopo che tutto il settore lo implorava, e quindi oggi non potrà che essere d'accordo, ma si decide di farlo non tagliando altrove ma alzando le accise sulla benzina, è per me un'intollerabile offesa ai miei diritti di contribuente. Mi dispiace, non era questo di cui c'era bisogno. E riflettete su uno Stato che prima vi fa protestare contro i tagli e così, dopo le vostre proteste, vi accontenta, a quel punto rendendovi ciechi e muti di fronte al fatto che lo fa alzando ancora una volta la pressione fiscale. Stato ladro! Questa è la mia conclusione. Mi dispiace, e l'ho fatto difendendo i teatri e la cultura. Stato ladro, Stato ladro! Regole non vanno cambiate dicendo che lo si fa per la cultura. Se bisogna considerare la cultura prioritaria, io non lo so, ne abbiamo discusso, si tagliava altrove, così sono bravi tutti. E fate male ad applaudire se state applaudendo al ripristino del FUS fatto in questo modo. Grazie a tutti gli ospiti, appuntamento a domani, Linea Giornale Radio.